Madonna siete per voi. Allora, signore e signori, dopo questo confronto che ci ha fatto veramente studiare e sudare, ci ha fatto capire cos'è la regione Calabria cosa e la provincia Cosenza, siamo arrivati al termine di questa puntata 1.2 di Non aprite quella persiana. E volevo salutare tutte le persone che ci ascoltano da fuori, e in particolar modo volevo salutare che se ne vanno fuori, ma che hanno un contatto con noi. Mi sembra una voi paesata. Tra un poco volevamo salutare Raggio Maneggio. Sì, ho come dice amici di Blandini, Massimo Cambeggio. Però purtroppo prima di concludere questa trasmissione, nel finale ricordiamo che Bici di Bagnini, quando è morta Amy Winehouse, ha detto: voglio, avete visto che è morta Animal House. Comunque Abbiamo la malalingua della gente. Va bene, è arrivato il momento, però lui purtroppo c'è il suo momento delle marchette. Quindi prima Mariello il prapapappo. Quindi prima di concludere le televendite di Angelo, vai con le televendite di Mitch di Bagnini, vai. Completo l'orologio, questo è un orologio fantastico! Materazzi! Ciao! Abiti, sono feriti gli sport, sono durati moltissimo, grazie. Gli sport! Comprate grandi magazzini, ciao, arrivederci! E fa come farlo? Ok, detto questo, siamo arrivati al termine. Vi ringraziamo, vi diamo appuntamento a lunedì prossimo. Dovrebbe ritornare Lauretta. Speriamo. Domani sera c'è Rosario con Non aprite quella. Sì, guarda sulla linea d'ombra. O roviniamo per Rosaria, dai. Scusa. Mercoledì sera Live is Life, non c'è la Champions League, però ritorneremo con la Champions League. Giovedì Rock on the Road e venerdì c'è un programma. Non mi ricordo, al vivo, non mi ricordo. Non è giusto. Ma chi è che non mi segnali? Non lo so come si chiama. Chi non dice che fa un giornalista? Sì. Come si chiama? Massimo! Se vedo la Asseggialo! Asseggialo! Ma non so come! E il nostro grande Massimo Maneggio ci sarà venerdì. Prima devo che la squadra posso giocare di Serie B lo spareggio. Ma te puscia fricarca, tu ne hai fatto lui i campionati in Serie B. Vabbò, avessi vinto i Champions League che hai vinto. Ricordiamo che lo Juve Stadium martedì, mercoledì e giovedì sarà chiuso. Grazie. Sarà chiuso perché ci sono tanti appuntamenti sui concerti, sui cose. No, c'è la Champions, c'è la UEFA. Vabbè, ma no, sembra molte, molte cose. Ma la Juventus. Non ti preoccupare. Abbiamo capito che le prossime capate saranno tra i tifosi di squadra. Abbiamo i capi tifosi. E quindi il prossimo la prossima sfida. Se il tono era regge è svenuto. È svenuto. Va bene, amici. Possiamo chiudere. Salutiamo Lauretta. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito. Qui ringraziamo a Pietro, Mitch, Andrew, Massimo, Alessia ed Emilio. Arrivederci di Bagnolo. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao. Fuck.